Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino dal titolo Solo nella tempesta. Oh, fosse semplice vita mia, serenità, pace, calma e quiete, ma sono qui, preso dal mare in burrasca, senza nessuno che porga un'amica, fraterna mano. Solo nella tempesta devo trovare il mio essere e pregare Poseidone di calmare il mare. La barca non fa che perdere pezzi di me ed io non posso far altro che stare a guardare. No, l'animo è ancora forte e crede, io tesso verde speranza, non torba paura. Ed anche se solo non mi perdo d'animo io, riuscirò laddove nessuno è mai riuscito, a passare i gorghi di Scile e Cariddi.